Questo quadro è estremamente interessante, affascinante, che ci è stato appena descritto, viene presentato in una sessione intitolata Le istanze della società. Ma in realtà lo stesso Giuliano ha avuto cura a un certo punto di precisare che l'esposizione, i problemi che egli ci metteva di fronte, erano sì le istanze della società, ma della società organizzata. E questo mette l'accento su di uno snodo estremamente interessante tra la società nuda e poi la società politica. In realtà però non vi è dubbio che la situazione che costituisce oggetto delle nostre analisi da stamani è la situazione del mondo globale, dei poteri che in esso operano e quindi anche delle ingiustizie che su questa scena globale si producono, delle sofferenze, per così dire. Io condivido molto la conclusione, diciamo così, ottimistica, ma è banale chiamarla ottimistica, cioè la conclusione non rassegnata dell'intervento che abbiamo adesso ascoltato, quando dice ma insomma speriamo di arrivare, perché se non vi è speranza non vi è lotta, non vi è mobilitazione e certamente la partita è persa. Ma questa lotta trova la propria, per così dire, immediata sollecitazione, quella direi più naturale, proprio nelle sofferenze della società che vive in questo tessuto così complesso e organizzato, quale ci è stato accennato. Ora sono le istanze di questa società che il Tribunale Permanente dei Popoli ha come vocazione di raccogliere e di in qualche modo far emergere. E allora il discorso che tenterò di fare fa riferimento, sì, certo, anche ai recenti lavori del Tribunale Permanente dei Popoli, che sono relativi proprio all'Unione Europea e imprese multinazionali. C'è una sentenza del Tribunale Permanente dei Popoli che è del 2010 e che conclude nella una serie di attività precedenti. Tuttavia, per meglio intendere questo, diciamo, questa impresa del Tribunale Permanente dei Popoli, occorre non soltanto valutare il contesto nel quale l'impresa stessa si colloca, ma anche la storia del Tribunale Permanente dei Popoli. Da dove viene questa vocazione del Tribunale Permanente dei Popoli? Come è nata questa idea che ormai ha vari decenni? Il contesto, l'abbiamo sentito, è la globalizzazione economica, la quale tanto quanto sposta oltre i confini degli stati di provenienza delle singole imprese l'area di intervento di queste, ne sottrae sempre più l'agire alla regolazione dei singoli stati. E in assenza di una sfera pubblica globale che a tutt'oggi è del tutto embrionale, nonostante i tanti riferimenti che sono stati qui compiuti, fa di questi poteri economici che agiscono sullo scenario globale gli unici poteri effettivi, con effetti diretti sulle popolazioni interessate dalle scelte di queste imprese. Poteri di fatto, certo, ma non per questo meno effettivi e reali, dal momento che non c'è alcun potere pubblico che possa realmente governarli. I tentativi che qui sono stati illustrati e che certo vanno sostenuti sono appunto tentativi di cui abbiamo potuto seguire, e questo trovo molto interessante nell'esposizione che ho ascoltato, abbiamo potuto seguire lo sforzo, le difficoltà, il passo avanti seguito da due passi indietro, le contraddizioni. Ecco, questo. Quindi noi ci troviamo, se oggi dobbiamo dire, ma in questo mondo globale, chi, i poteri, da dove vengono? Ci sono dei poteri effettivi che sono poteri di fatto, che sono i poteri delle grandi imprese transnazionali e che, mutuando l'espressione usata da un grande giurista, Luigi Ferraioli, che forse ricorderò ancora andando avanti in questa esposizione, possiamo definire poteri selvaggi. È in questo vuoto di contropoteri, di sede, di istanze dove possono essere fronteggiati i poteri selvaggi, si colloca oggi l'iniziativa del Tribunale Permanente dei Popoli. Ma, come dicevo, per intendere questa iniziativa, forse vale la pena fare un passo indietro di qualche decennio, se non più. Mi avvarrò in questa ricostruzione storica, che per alcuni è assolutamente scontata, ma per altri forse meno, di quanto scriveva Lelio Basso, che è all'origine di questa, come dire, grande intuizione, che è stato geniale creatore teorico di questo strumento di mobilitazione. Circa 50 anni fa, in uno scenario mondiale molto diverso dall'attuale, quando non poteva ancora parlarsi di globalizzazione, non fosse altro perché il globo era diviso dalla guerra fredda, però avevano già fatto la loro apparizione le imprese multinazionali, il potere economico da queste imprese espresso non aveva esitato a sostenere l'instaurazione di regimi politici ferocemente dittatoriali, che avevano soppresso le libertà fondamentali e ogni diritto dei lavoratori in America Latina. Avevano introdotto la tortura come ordinario strumento di governo, piegato il potere pubblico ad essere docile strumento degli interessi di queste multinazionali. Ciò era avvenuto in America Latina partendo dal colpo di Stato in Brasile del 1964. Che aveva creato lo Stato della sicurezza nazionale, fondato sulla omonima dottrina, il cui modello istituzionale e la cui ideologia si erano rapidamente estesi a seguito di successivi colpi di Stato, dei quali il più sanguinoso è stato quello che ha rovesciato il governo democratico di Allende, che tentava di invertire questa rotta, in tutto il subcontinente americano. E nel 71 un gruppo di esuli brasiliani, che avevano trovato rifugio nel Cile di Allende, si rivolse a Lelio Basso chiedendogli di ripetere, a proposito della repressione in Brasile, l'esperienza fatta qualche anno prima dal tribunale di opinione creato da Bertrand Russell con riferimento al Vietnam, tribunale del quale Lelio era stato relatore generale. e racconta lo stesso Lelio Basso, e qui cito: nel lungo periodo di preparazione necessario a riunire eminenti personalità che avessero autorità nel campo spirituale, religioso, sindacale, culturale, eccetera, si verificarono i colpi di Stato in Uruguay e in Cile. Poco prima vi era stato anche il colpo di Stato in Bolivia. Sicché quando il Tribunale si costituì alla fine del 73, decise di occuparsi anche di questi altri paesi. E su questa base si aprì a Roma il 30 marzo 74 la prima sessione del Tribunale Russell. La notizia dell'esistenza di questo tribunale si sparse per il mondo. Fece sì che esuli o comunque vittime della repressione da parte di molti altri governi latinoamericani si rivolgessero al Tribunale Russell II per chiedere che anche il caso del loro paese fosse esaminato. Paraguay, Haiti, San Domingo, Guatemala, Porto Rico, Nicaragua, Argentina e Colombia. Cioè praticamente la maggioranza degli stati e della immensa maggioranza della popolazione dell'America Latina. Anche se le situazioni non sono identiche, continua Basso, c'è una differenza tra dittature instaurate da molto tempo, come quella del Paraguay, e colpi di Stato più recenti, si è potuto avere la prova che se un intero continente è soggetto a simili regimi di feroce dittatura militare, se quasi tutte le sue popolazioni sono così barbaramente private dei diritti dell'uomo, ciò non può essere frutto di una serie di coincidenze occasionali, ma deve essere il frutto di processi storici, che era dovere del tribunale indagare. Chiusa la citazione. E così nasce la seconda sessione del Tribunale Russell sull'America Latina, che si tiene a Bruxelles nel 75, e che si occupa appunto del ruolo delle multinazionali nell'instaurazione e sostegno delle dittature latinoamericane, ma che al di là di questo ruolo individua nelle multinazionali le nuove forme che il potere economico tenderà ad assumere in un mondo che appariva all'epoca tendere alla globalizzazione, pur con gli ostacoli già ricordati. Si pone così, quindi siamo nel 1975, quasi 40 anni fa, a Bruxelles, il problema della ricerca dei rimedi. E Lelio Basso, interpellato da questa situazione, che egli individua con grande anticipo e precocità, indica, cito, è necessario l'elaborazione di nuove norme di diritto internazionale che da un lato assicurino nuovi rapporti economici tra le nazioni e più in generale un nuovo ordine economico internazionale, ma che al tempo stesso assicurino anche i diritti dei popoli, delle donne e degli uomini, non solo contro gli oppressori esterni, ma anche contro gli oppressori interni e lo sfruttamento internazionale. Quando lei parlava dell'ordine economico globale, mi sembrava di sentire riecheggiare queste intuizioni che allora non tutti coglievano nella loro carica di apertura verso il futuro e di mobilitazione. E però per contribuire a questo obiettivo, perché non sono obiettivi di breve momento, di breve durata, Lelio Basso era ben consapevole della complessità della storia, del fatto che essa, come dice Montale, non procede secondo l'orario ferroviario, una stazione dopo l'altra, che spesso si ferma o spesso il treno torna indietro. E per raggiungere questo obiettivo, Lelio Basso dice, ma quali strumenti può avere la società, direi, non ancora organizzata? E pensa che a questo punto sia da formulare una sorta di testo che raccolga e sistematizzi in un discorso organico e coerente i diversi principi affermati nelle varie sentenze del Tribunale Russell nel corso delle sue 3 sessioni. Principi che erano riconducibili assai spesso a testi internazionali già esistenti, ma di incerto e diseguale valore giuridico, perché la produzione di testi internazionali è ricchissima. E vi sono le raccomandazioni, vi sono le dichiarazioni, vi sono le prese di posizione. E poi però la difficoltà interviene quando si tratta di portare tutta questa serie di principi ad un testo organico, coerente e con vocazione alla effettività, un testo che effettivamente sia, come dire, regolatore. Ebbene, dice Basso, proviamo a metterli insieme, proviamo a renderli accessibili a chiunque e proviamo a farne uno strumento di mobilitazione anche di chi vive fuori dalla società civile organizzata, di chi non tutti hanno accesso, come dire, alle elaborazioni degli uffici studi dei sindacati. Siamo già a un livello, come dire, di organizzazione e di implicazione anche con i gangli del potere che sfuggono alla generalità della gente. Nasce così la dichiarazione di Algeri del 1976, ben nota come dichiarazione universale dei diritti dei popoli. Questo approdo è significativo sotto almeno 2 aspetti. Innanzitutto, esso ribadisce una costante del pensiero teorico-politico di Lelio Basso, secondo il quale il diritto è uno strumento di lotta per la realizzazione di quelle istanze e di quelle aspettative. Oggi credo che sia difficile trovare chi contesti questa affermazione. Nella metà degli anni 70, nella nostra Europa, dei diritti umani, delle tradizioni costituzionali e così via, era molto diffusa questa contestazione, una sorta di febbre, di impazienza dell'agire qui ed ora, subito, percorreva l'Italia, la Francia, la Germania. In secondo luogo, tanto quanto quel testo trae la propria legittimazione dalla congruenza con concreti bisogni e aspirazioni delle donne e degli uomini che in varie parti del mondo subiscono offese alla propria dignità e ai propri diritti, esso intende sollecitare solidarietà e mobilitazione a favore delle vittime di tali offese ed innescare nell'opinione pubblica un processo in tal senso, le porre sul proscenio le vittime dei processi storici che stiamo vivendo. Non soltanto proprio il carattere contraddittorio della storia fa sì che questa presenti successi e costi, porre questi costi umani. E viene qui in rilievo l'esperienza fatta dallo stesso Basso, prima con il Tribunale Vietnam, quindi con le 3 sessioni del Tribunale sull'America Latina. Esperienza che ha dimostrato appunto quanto l'opinione pubblica possa incidere sullo stato delle cose quando si mobilita e rappresentare essa una forza efficace da contrapporre ai poteri selvaggi. Laddove sembra che non vi sia alcun contropotere efficace per opporsi al dominio di un potere che non conosce altra legge che la propria, Basso lucidamente scorse nella mobilitazione della pubblica opinione la risorsa alla quale fare appello per contrastare quel dominio. Anche qui un'intuizione che nei lustri e decenni successivi è stato largamente confermato. Voi ricorderete che agli inizi di questo millennio, da sedi, certo lontanissime dalla cultura, dalla Fondazione Basso, si è parlato della opinione pubblica come della seconda potenza mondiale. Questo quando ci furono grandi manifestazioni in tutto il mondo per la pace. L'opinione pubblica, seconda potenza mondiale. E anche qui è bene in qualche modo riandare alle radici di ciò che ci anima, di ciò che ci ha nutrito, perché questo può aiutare a procedere. Basso, peraltro, si rese anche conto che per mobilitare questa potenza mondiale occorreva uno strumento di rappresentazione e denuncia dei misfatti del potere. Uno strumento capace di dar modo alle vittime di far udire la propria voce e di essere ascoltate. E tale strumento era, avvisò, forte della esperienza in materia, in un autorevole tribunale d'opinione. E concluse sulla necessità di rendere permanente questa istanza, perché sia il tribunale Russell sul Vietnam, sia quello sull'America Latina, erano tribunali nati, per così dire, ad hoc, sulla base di una sollecitazione ad hoc. E Basso si rese conto che occorreva una sorta di tribunale che in qualche modo prefigurasse quello che forse tra qualche decennio, o forse tra un secolo, potrebbe essere un mondo unito da regole comuni e cogenti e presidiate da tribunali effettivi. Ma del resto qualcosa, sia pure embrionale, in materia di tutela dei fondamentali diritti della persona ha cominciato ad apparire. Da allora questo tribunale nasce nel 78, pochi mesi prima della scomparsa di Basso. Da allora, in oltre tre decenni, il Tribunale dei Popoli ha tenuto decine e decine di sessioni, non soltanto in Europa ma anche in altri continenti, confermando la lungimiranza di chi lo aveva ideato e voluto. E ogni volta dando voce a istanze diverse alla società planetaria. Tutte peraltro riconducibili queste voci ad una invocazione di rispetto della Dichiarazione Universale dei Diritti dei Popoli. Adesso non è la sede per soffermarci su queste sessioni e sulle relative tematiche, salvo, e sia pur molto brevemente, sulla sessione dalla quale parlavo all'inizio, che si è svolta a Madrid dal 14 al 17 maggio. Grazie. 2010. Il tema di questa sessione ha riguardato l'Europa e le imprese transnazionali in America Latina, ed in particolare le politiche, gli strumenti, gli attori ed i complici nelle violazioni dei diritti dei popoli implicate dagli interventi di quelle imprese in tale continente. È stata preceduta la sessione di Madrid da due sessioni istruttorie tenute rispettivamente a Vienna nel 2006, a Lima nel 2008. E l'intervento del Tribunale Permanente dei Popoli è stato sollecitato da numerose associazioni, comitati, gruppi di azione rappresentative delle popolazioni locali interessate dai comportamenti delle transnazionali. Comportamenti denunciati come tutti in violazione dei diritti fondamentali di quelle popolazioni. E in questo senso le iniziative assunte da tali associazioni e gruppi di azione si configurano appunto come istanze della società latinoamericana, settori marginali, ma non per questo meno esistenti di esse, settori che si rivolgono alla comunità internazionale e specificamente all'Unione Europea, posto che le imprese, i cui comportamenti sono chiamati in causa, hanno la sede centrale nella stessa Unione Europea. In questo vi è tutto un elenco delle imprese delle rispettive sedi centrali. E sulla scorta delle denunce, della documentazione prodotta, delle investigazioni condotte, delle testimonianze raccolte, il Tribunale ha ritenuto fondate molte di quelle denunce relative all'uso di forze militari, paramilitari, di polizia e di imprese di sicurezza private da parte di varie imprese in vari luoghi dell'America Latina. Certo, emerge anche qui la differenza di contesti che forse è offuscata dall'uso sul quale giustamente rispetto al quale giustamente ci metteva in guardia Giuliano, dall'uso del termine America Latina. Forse bisognerebbe dire America Latina, perché diverse sono le situazioni dalla Colombia al Brasile. E certo, vi sono stati sequestri, omicidi di leader sindacali, lo abbiamo sentito per esempio per la Colombia, sparizioni forzate. Ma sono stati anche documentati i danni alla salute derivanti da privatizzazione dell'acqua, da inquinamento di falde acquifere in alcune zone dell'Amazzonia brasiliana, inquinamenti conseguenti alle attività industriali con la esercitata. Sono stati documentati i danni della deforestazione, della contaminazione dell'aria a causa di fumigazioni, di gas tossici. Sono stati documentati e denunciati i gravi e irreversibili danni all'ambiente, all'ecosistema, la distruzione persino dell'ambiente di vita e delle condizioni di vita tradizionali per alcuni popoli indigeni. E poi pratiche antisindacali, violazioni massicce dei diritti dei lavoratori. Come conclude il Tribunale Permanente dei Popoli? E qui vi è un appello diretto per noi, intrigante, impegnativo. Il Tribunale Permanente dei Popoli parte dalla Costituzione europea e ricorda l'articolo 292, che dice che disciplina l'azione esterna dell'Unione, cioè proprio quella alla quale si riferivano le relazioni che abbiamo ascoltato. L'azione dell'Unione, leggo qui il testo, sulla scena internazionale si fonda sui principi che ne hanno informato la creazione, lo sviluppo e l'allargamento e che essa si prefigge di promuovere nel resto del mondo. Due punti. Democrazia, Stato di diritto, universalità, indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, rispetto della dignità umana, questo è il punto fondamentale, rispetto della dignità umana, principi di eguaglianza e di solidarietà, rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale. Ecco, il Tribunale Permanente dei Popoli incontra gli sforzi che in tante sedi la società civile organizzata fa e in qualche modo lancia questo suo messaggio innanzitutto a voi, esponenti della società civile organizzata, perché voi possiate portarli con, come dire, la vivezza e la concretezza di una documentazione di situazioni concrete di intollerabile oppressione della dignità umana alla attenzione degli organi cui spetta, entro certi limiti, decidere. E allora chiede, per concludere, il Tribunale Permanente dei Popoli chiede una serie di misure all'Unione Europea. misure che tutelano i diritti delle vittime di violazione dei diritti umani. Chiede alle istituzioni dell'Unione Europea di stabilire un centro per le imprese transnazionali incaricato di analizzare, indagare, ispezionare le pratiche delle stesse sui territori. E poi specifica, detto centro potrebbe essere gestito con la partecipazione di organizzazioni sindacali, movimenti sociali, cittadini, imprenditori e governi. E chiede poi di stabilire all'interno del proprio ambito un sistema di rapporti periodici di adempimento obbligatorio sull'osservanza delle norme basiche e così via. Non sto a leggere tutte le richieste, molte delle quali, ascoltando in particolare la relazione che mi ha preceduto, trovano già un inizio, per così dire, di mobilitazione da parte delle organizzazioni sindacali, da parte dei movimenti dei lavoratori che in qualche modo si raccordano con questa struttura. Quali risposte rispetto a queste istanze del Tribunale Permanente dei Popoli? Troppo semplice liquidarle come meramente utopistiche. Ancora una volta, se volgiamo lo sguardo indietro di 40 anni, dovremo riconoscere che molte delle istanze che il Tribunale Russell sull'America Latina rivolgeva alla comunità internazionale e che allora sembravano utopistiche, sono bene o male diventate realtà. E qui torniamo. L'America Latina è oggi fatta in gran parte da democrazie. Il Brasile, patria della sicurezza nazionale e dell'omonimo Stato, è stato lo Stato della sicurezza nazionale, è oggi una grande democrazia. Mi ha fatto piacere sentirlo da chi conosce direttamente, sperimenta ogni giorno. La sua Costituzione è studiata come una delle più avanzate costituzioni del mondo. Vi sono pagine molto belle e interessanti di Luigi Ferraioli nei suoi Principia Iuris e in altri suoi scritti, in cui egli, che è spesso ospite delle università latinoamericane, descrive la potenzialità di questi strumenti giuridici con vocazione all'effettività, perché la Costituzione brasiliana non è una Costituzione soltanto scritta sulla carta, ma ogni pubblico ministero può, come dire, denunciare una legge in contrasto con la Costituzione. Tra l'altro io ho trovato molto interessante, questo perché riprende un po' quello che dicevamo a proposito di Lelio Basso in questa sede, quindi anche se ci porto per un istante solo fuori dalla tematica stretta di questo nostro incontro, è bene ricordarlo. Una delle grandi intuizioni di Lelio Basso ed uno dei grandi lasciti si trova scritto, come tutti sappiamo, nella Costituzione italiana. E quel secondo comma dell'articolo 3, a mente del quale è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli d'ordine economico e sociale che impedendo di fatto l'eguaglianza, la dignità, eccetera. In Italia sono 60 anni che ci si arrovella, ma che valore ha questa norma? Cosa si può fare per... Come posso denunciare? Nessuno può denunciare. Noi ci troviamo in presenza di una lacuna, come spiegano i grandi giuristi, se quest'opera di rimozione non è iniziata, avviata, una lacuna che può essere soltanto denunciata politicamente e orientare in qualche modo. La Costituzione brasiliana prevede che in questi casi la Corte Costituzionale possa rilevare la lacuna e poi, senza intervenire, segnalarla al Parlamento dicendo: guardate, qui bisognava fare questo, questo. Naturalmente non posso essere io, perché la giurisdizione, anche a livello costituzionale, non può sostituirsi alla politica, ma voi siete tenuti a provvedere secondo le scelte sovrane, le combinazioni che riterrete più opportune. Bene, questo è oggi il Brasile. E se siamo riusciti, tutti nel mondo, e i brasiliani in primo luogo, a passare dallo Stato alla sicurezza nazionale a questa democrazia, certo, questo apre la speranza, perché altre mete che oggi appaiono così difficili possano essere perseguite perlomeno. Tuttavia vorrei finire dicendo che certo non mancano le cadute in America Latina. Mi ha molto stupito leggere su Le Monde di domenica scorsa un editoriale che dice come, per quanto riguarda il rispetto dei diritti umani, che ormai è affermato in quasi tutte le Costituzioni, cominciano a levarsi delle voci critiche. Per esempio, il presidente boliviano Evo Morales, in occasione del recente vertice latinoamericano in Cile, ha avuto un'uscita. Il rispetto, cito tra virgolette, il rispetto dei diritti della madre terra, la Pachamama, è molto più importante che il rispetto dei diritti umani. Ora tutti noi possiamo valutare, come dire, quando il pericolo, la deriva alla quale possono essere esposti i diritti umani nel momento in cui si introduce la divisibilità. Una delle, come dire, conquiste della battaglia dei diritti fondamentali, consacrata nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e oggi nella Costituzione, è l'indivisibilità dei diritti. Attenti a non fare, come dire, questa gradazione. E poi il presidente ecuatoriano Rafael Correa a un certo punto ha fatto ricorso ad un'immagine abbastanza curiosa. Ha fatto una sparata a favore della indipendenza dell'informazione e della necessità di un'informazione indipendente per il funzionamento della democrazia. E quindi ha detto, ma le istituzioni indipendenti sono le istituzioni create dallo Stato. Anche la magistratura è indipendente, è un'istituzione statale. Bisogna che l'informazione sia statale. Naturalmente. Per fortuna Dilma Rousseff, la presidente brasiliana, che ha un peso notevole, ha detto che gli ha risposto dicendo: preferisco il rumore, la confusione della libera stampa al silenzio sepolcrale di una stampa di Stato. E tuttavia persino Dilma Rousseff ha, come dire, avuto dei comportamenti che in qualche modo ci inquietano, quando recentemente ha lamentato l'eccessiva ingerenza della Corte Interamericana dei diritti dell'uomo sulle sovranità dei singoli Stati. Concludo, sperando di non avervi preso molto tempo. Questi ultimi accenni servono solo a dire quanto sia difficile e accidentato il cammino. Il divario tra valori normativi ed effettività in contesti diversi emerge prepotente e costituisce il terreno d'impegno per quanti abbiano a cuore i valori che ruotano intorno alla dignità umana. E noi siamo impegnati qui, ci scambiamo le informazioni e cerchiamo anche, se possibile, di confortarci e sostenerci a vicenda. Grazie.